Vai sul serio. Lo hai detto, hermano. Non si scherza con Jesus. Fuoco alle polveri. Lucanicos, cane meticcio color sabbia. Regolarmente registrato all'anagrafe canina col nome 1842, residente sulla scalinata di fronte al Parlamento della capitale greca, destinato a diventare il simbolo della rivolta contro l'austerity e uno dei personaggi dell'anno secondo il Times. In prima linea in tutte le manifestazioni di protesta a partire dal 2009 e sempre dalla parte di chi si opponeva ai tagli della spesa pubblica. Ai cortei non ce lo portava nessuno, ci andava da solo, come fosse in grado di sapere i giorni esatti e riconoscere da che parte stare. Resta un mistero, coraggioso, intelligente, mai domo. Non ha mai risparmiato un morso o il suo rauco abbaio a chi attacca i più deboli. Scansando cariche della polizia e lanci di Molotov, sanpietrini e gas lacrimogeno. Ha rappresentato il volto della rivolta. Le foto che lo immortalano in azione non si contano. Una delle più celebri lo ritrae al fianco dei poliziotti che scioperano contro i tagli agli stipendi delle forze dell'ordine subito dopo essere stati manganellati dai loro colleghi in borghese. Lucanicos, soprannominato il cane Black Bloc, a essergli fatale fu il gas lacrimogeno inalato in tanti anni di manifestazioni. Problemi polmonari che lo hanno lentamente costretto a ritirarsi dalla lotta quando però la guerra era ormai sul punto di essere vinta e la Grecia faceva registrare una netta ripresa. Gli studenti del Politecnico, che scortava in corteo, si sono resi conto che aveva qualche difficoltà motoria e così qualcuno ha deciso di prendersene cura. Era sul divano a dormire, tranquillo, e all'improvviso il suo cuore ha smesso di battere, ha raccontato commossa la famiglia che lo aveva adottato. La troica e le pattuglie di poliziotti antisommossa di Atene possono tirare un sospiro di sollievo, ha scritto la testata di un giornale dando la notizia della sua morte. Lucanicos se n'è andato nel sonno, aveva 10 anni e la lotta contro gli oppressi aveva trovato un nuovo eroe. Cronache ribelli, almanacco di utopie reali, identità indelebili e rinnovata memoria. Bentornati e bentornati alla puntata 79 su Fuoco alle Polveri. Io volevo il buonasera e benvenuti di Tuco. Dai Tuco! Benvenuti, buonasera e benvenuti alla 79esima puntata di Fuoco alle Polveri. Ora sì che prima no. Ciao Tuco! Ciao a tutti! Ciao Rippo, a tutti e ciao tutte. Ciao Baldo e ai nostri ospiti, fra poco vi presenteremo. Di cosa parliamo oggi? Di cosa parliamo oggi? Abbiamo un compagno del collettivo organizzato K1 che ne hanno passate del belle giusto questa settimana. Abbiamo in programma di parlare della guida all'autodifesa legale Stop al Panico, che verrà presentata. Ci sarà un'iniziativa presso i locali della polveriera sabato 15. Abbiamo tutto un aggiornamento sugli sgomberi, che sono tanti, a Fiorentini, e inoltre parleremo fra questi sgomberi anche quello appunto dello spazio della polveriera. Intanto, tornando sul tema Grecia, vi leggo un comunicato o parte di un comunicato di ACAD che abbiamo avuto proprio in questa regia un paio di settimane fa. Perché? Perché sono esattamente 10 anni, o almeno lo erano il 6-12, quindi giovedì scorso. Erano 10 anni dalla morte di Alexis, un quindicenne che proprio ad Atene il 6 dicembre del 2008, intorno alle ore 21, fu ucciso da un poliziotto. Durante un pattugliamento del quartiere universitario di Exarchia, ad Atene, spara uno studente di 15 anni al petto, uccidendolo. Alexandros Andreas Grigopoulos, 15 anni. Anche qui tutta la storia ufficialmente è uscita come, tra l'altro ricorda fatti anche italici, avvenuti in Italia, uno sparo, un'aggressione a una camionetta della polizia, uno sparo in aria che però per caso, per sbaglio, ha colpito il quindicenne. In verità poi è stato diffuso anche un video girato da un passante che riprende il poliziotto che scende dalla camionetta, si avvicina, mira esattamente al petto del ragazzo, gli spara e lo uccide. Ennesimo caso di abuso in divisa. Detto questo, buonasera a tutte e tutti. Andiamo con un pezzaccio, il primo pezzaccio della giornata. Primo pezzaccio della giornata, a tema diciamo, ce l'abbiamo, è un pezzo dei Morphine e si intitola All Wrong, tutto sbagliato. Wombat. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Torniamo in regia, mi hanno riacceso. Eccoci qua, con l'ospite. Abbiamo Leonardo, dal collettivo auto-organizzato K1. Sì, che... Ciao a tutti e a tutti. Benvenuto. Grazie. E, che ci racconta cosa è successo la settimana scorsa, perché abbiamo letto ben due comunicati sulla pagina del collettivo, e uno riguardante lo stato delle scuole, delle nostre scuole, e un altro invece riguardo a una aula autogestita. Raccontaci, sì, che cosa è successo. Partiamo dall'aula. Partiamo dall'aula. Allora, noi sono la premessa, sono 3 anni che chiediamo un'aula autogestita e non ci viene mai concessa nei termini che vogliamo noi, nel senso sempre solo 2 pomeriggi per 2 ore a settimana, oppure soltanto la presenza di un sorvegliante. E quindi quest'anno abbiamo deciso di prenderci la laurea dopo aver l'aula dopo aver fatto anche quest'anno numerose richieste, e abbiamo occupato di fatto un'aula al terzo piano della sede del Frescobaldi e del liceo Machiavelli. E abbiamo deciso di renderla viva, e venerdì pomeriggio abbiamo deciso di fare un'assemblea pomeridiana di tutti gli studenti nell'aula autogestita del K1. E era per noi impellente fare questa assemblea, appunto per i motivi di edilizia scolastica, di cui magari avremo modo di parlare dopo. Assolutamente. E mentre eravamo lì, eravamo una quarantina in quest'aula, dopo già 5 minuti sono spuntati preside con i vicepresidi e 2 di Gossini a cacciarci via. La preside non ha neanche provato a parlare, ha cominciato subito a urlare, e Digos e i vicepresidi hanno cominciato a prendere i nomi di tutti i partecipanti all'iniziativa, dicendoci che saremmo stati denunciati e comunque avremmo avuto sanzioni disciplinari interne alla scuola se non fossimo usciti immediatamente. Dopo vari litigi con la preside siamo usciti facendo un piccolo corteo interno alla scuola mentre uscivamo, e ci siamo riuniti in assemblea in Santo Spirito. E quello che ne è uscito fuori è che questo è un fatto gravissimo, perché non esiste che la preside si presenti direttamente con la polizia all'interno della scuola, cacciando gli studenti stessi di quella scuola che vogliono semplicemente fare un'assemblea e parlare di che cosa non va, perché ci sono tante cose che non vanno nella nostra scuola. Ecco, la preside, intanto lo possiamo dire chi è? È Gilda Tortora, che voi conoscevate già per fatti simili, giusto? Già era... Sì, è la nostra preside da qualche anno ormai, e già alla tentata occupazione dell'anno scorso si è presentata subito con la Digos, già per settimane e settimane dopo l'autogestione. Un funzionario della Digos della Questura di Firenze è stato fisso a scuola in vicepresidenza, e anche quest'anno e l'anno scorso sospettiamo che ci sia sempre un digossino almeno un giorno a settimana all'interno della scuola. Di sicuro ha collegamenti diretti, perché alle 2:05, cioè 5 minuti dopo l'uscita della scuola, c'era già la polizia. Corsia preferenziale. Il sì, tema, corsia preferenziale. Il tema è quello degli spazi, come in tutta la città, anche nelle scuole mancano gli spazi dove poter parlare. Sì, in realtà non è che mancano, è che non vengono dati agli studenti, ecco. Perché questa aula per esempio era totalmente inutilizzata, ma evidentemente non c'erano aule prima che la trovassimo noi. Allora, parliamo intanto del collettivo K1, che è abbastanza nuovo, è nato da poco. No, in realtà il K1 è un collettivo che esiste da tempo. Ok. Perché è quello scolastico. Il collettivo antagonista studentesco invece è un collettivo che nasce da poco, che è un collettivo appunto di area antagonista, nato ad aprile, di un po' tutte le scuole di Firenze, tutti gli studenti e studentesse fiorentine. Fiorentine non solo. Sì, anche di Empoli abbiamo. Esatto. E appunto il CAS l'abbiamo visto, era giovedì se non mi sbaglio. Il CAS l'abbiamo visto giovedì e venerdì sotto gli uffici della città metropolitana. Giovedì abbiamo fatto un presidio per essere ricevuti e per ottenere lo stanziamento di fondi per l'edilizia scolastica, appunto, non solo al liceo Machiavelli ma in tutte le scuole che ne hanno bisogno. Non siamo stati ricevuti perché ci è stata data la motivazione che stavano facendo l'albero di Natale all'interno della città metropolitana. Ma è importante, questa cosa. Cioè, è importantissimo l'albero di Natale. E siamo restati lì a far presidio, e andandocene abbiamo detto immediatamente che saremmo tornati il giorno dopo. Sappiamo anche che c'erano subito i carabinieri già schierati in antisommossa e la Digos lì davanti. Il giorno dopo siamo tornati, abbiamo ritrovato sempre la Digos, che non ci faceva entrare, diceva che gli uffici erano vuoti quando gli uffici invece erano pieni. Infatti dopo un po' che noi restavamo in presidio, perché sapevamo che era una bugia il fatto che non ci fosse nessuno, è sceso l'ingegner Cianchi della città metropolitana, che è responsabile per l'edilizia scolastica, ha ricevuto 3 dei nostri, una delegazione, e di fatto la risposta della città metropolitana è stata testualmente che loro non possono fare niente, perché non possono fare niente a lungo termine, possono soltanto riparare ciò che si rompe, ovvero un soffitto che sta per cadere con le crepe, loro non possono farne manutenzione, ma possono soltanto riparare un soffitto che è già crollato. Questo a noi ci sembra assurdo e totalmente illogico, e non è solo lui lo poneva molto come un discorso di palazzo storico, ma uno, non tutte le scuole di Firenze sono palazzi storici, due, ci sono tantissimi palazzi storici non adibiti a scuole, tra cui tra l'altro anche la stessa città metropolitana, che è in via Cavour, che non crollano, dove non piove dentro. C'è stato detto addirittura che è normale che piova dentro le scuole. È normale, sì, poi tra l'altro non è che piove basta solo le scuole, perché... No, no, assolutamente, ci sono... Calamandrei, c'è il pavimento, ecco, fatto di amianto, il Castelnuovo c'ha i bagni che fanno schifo, c'è l'istituto di agraria, sia il tecnico sia il professionale, dove sono crollate, sono state chiuse per 2 settimane delle tende, sono crollate dei capannoni dove c'erano i trattori. Addirittura c'è stato detto, beh, ma non c'erano gli studenti sotto. Sì, ma non c'erano per caso, perché sappiamo che quelli dell'agraria lavorano nelle serre, quindi è veramente discutibile, insomma, questa presa di posizione. Parlaci del CAS, è una sigla nuova, dicevi prima, nonostante la mia gaffe, però ha delle caratteristiche che sono abbastanza nuove, ecco, nel panorama almeno dei collettivi fiorentini, perché ha delle connessioni molto strette con realtà sia universitarie che anche sul luogo di lavoro. Sì, sì, esatto. Abbiamo creato questa sigla perché ci sembrava che mancasse nella realtà fiorentina un'organizzazione studentesca del genere, di area antagonista propriamente. Infatti CAS è il collettivo antagonista studentesco e raccoglie studenti e studentesse di alcune scuole di Firenze, anche di Empoli, e il nostro percorso è cominciato a marzo dell'anno scorso. All'inizio ci siamo incentrati, abbiamo fatto un corteo contro la scuola lavoro ad aprile, che è stato anche caricato dalla Celere. E poi quest'anno ci stiamo incentrando parecchio su un progetto di studenti contro il razzismo. Dicevi prima, appunto, legati a realtà universitarie e lavorative, sì, noi facciamo parte comunque del progetto di IAM, quindi collaboriamo molto con il CUA e anche con i SICOBAS. Infatti al nostro corteo del 26 ottobre, che era organizzato insieme al CUA, di studenti contro il razzismo, c'era lo spezzone dei SICOBAS, esattamente come noi eravamo al corteo dei SICOBAS a Prato per il lavoratore che è stato aggredito dagli scagnozzi del padrone. Ecco, una cosa abbastanza nuova, perché negli ultimi anni si è visto attivi, sì, gli studenti universitari, però ecco, molto spesso le lotte degli studenti universitari sono più proprie degli studenti medi, e mi viene in mente anche solo tutte le proteste contro i test d'ingresso alle università, che vengono fatti dalle persone che già sono entrate all'università, quindi alla fine un po'... Sì, soprattutto stride. Spesso sono un po' autoreferenziali, anche esattamente come quelle degli studenti medi, proprio perché c'erano quasi solo collettivi interni alla scuola, collettivi scolastici. A noi ci sembrava opportuno, soprattutto con la situazione politica che stiamo vivendo, cercare di rivolgere la politica più su un piano nazionale, su un piano di idee, piuttosto che su riparare i bagni, che comunque sono lotte che portiamo avanti. Bene, quindi, allora, intanto com'è andata alla fine poi con quest'aula? Ci tornerete? L'avrete ancora? L'aula ci torneremo a costo di sfondare la porta, ce la chiudono sempre a chiave, ma noi le prendiamo le chiavi, non è quello che ci fermerà, di sicuro. Torneremo. Ecco. Stiamo infatti organizzando uno sciopero di tutti gli studenti e tutte le studentesse, sicuramente del Machiavelli Capponi, e stiamo provando ad allargarlo. Ci riuniremo giovedì con altre scuole di Firenze, stiamo provando ad allargarlo a tutte le scuole. E si tratterebbe di fare una specie di piccolo corteo mattutino di cui tutte le scuole parteciperanno. Sappiamo già che dal Machiavelli Capponi ci sarà sicuramente una grande affluenza, e è ancora da decidere l'obiettivo. Probabilmente cercheremo di andare da Nardella, o che è il presidente della città metropolitana, o comunque cercheremo di avere risposte concrete sulle scuole che ci crollano addosso, i soldi che sono spesi per le telecamere, per la polizia. Senti, i docenti che ne pensano di questo? Perché sono una parte in causa sicuramente, e fra l'altro c'è il sindacato dei Hobas che è presente nelle scuole e anche abbastanza affermato in alcune scuole. Sì, nella mia scuola per esempio molti docenti sono dei Hobas. Il problema è che hanno molta paura di esporsi. Spesso la maggior parte dei professori sono d'accordo con noi, soprattutto sulle idee. Alcuni sono d'accordo anche sui metodi, ma nessuno ha mai il coraggio di esporsi in prima persona. La preside mette sempre paura, tra virgolette, a tutti, e non solo agli studenti. È un atteggiamento che ha anche e soprattutto con il personale ATA, che sappiamo che è il nostro amico, che sta sempre con noi, che condivide le nostre lotte, ma che è veramente terrorizzato da un'eventuale perdita di un posto di lavoro, e dai professori che, o per mancanza di voglia, oppure appunto per mancanza di coraggio, condividono le idee ma non si espongono particolarmente, malgrado noi cerchiamo sempre di includerli nelle nostre lotte, di includerli in quello che facciamo. Fra l'altro è stata espressa solidarietà da parte di parte del corpo docente. Sì, è stata espressa solidarietà soprattutto al percorso di studenti contro il razzismo. Sono state firmate da una ventina di professori della mia scuola, più altri professori di altre scuole, alcuni comunicati su appunto il percorso contro Salvini. Ecco, dov'è che vi ritroverete? Hai detto ci sarà un incontro con tutte anche le altre allora, scuole. Allora, giovedì ci incontreremo con gli studenti in polveriera e vedremo di organizzarlo appunto questo sciopero. Bene, benissimo. Allora, infatti la polveriera è un altro dei nostri temi, sì. Ma della puntata. Ci sono dei suggerimenti? Ci sono dei suggerimenti da parte di un ospite estemporaneo che però voi spero che conosciate, ma sentiremo la sua voce. Dai. No, mi sembrava che avessi detto c'erano due volantini, due comunicati, uno rispetto al problema dell'aula negata e l'altro? L'altro era sull'edilizia scolastica. Quindi sia sulla risposta della città metropolitana sia sui problemi più propriamente del K1, quindi della nostra scuola. Noi abbiamo un termosifone esploso nella sede di Rinuccini, infiltrazioni di acqua da moltissimi tetti, classi allagate. Tutto normale? Sì, tutto normale, perché chiaramente è un palazzo storico ed è normale che nei palazzi storici funzioni così. Va bene, dai, allora che vi devo dire? Andate con gli scintilli a scuola, ragazzi. Dai, va bene, perfetto, Leonardo. Grazie. Grazie per il tuo contributo. Grazie a voi per l'ospitalità. Buon lavoro, buono studio. Tienici aggiornato, assolutamente. Certo. E se ci sarà bisogno, chiaramente. Ci sarà. Purtroppo. I microfoni di Radio Wombat sono sempre aperti. Grazie. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao a tutti e tutte. Stemperiamo l'atmosfera con una canzoncina. Ci state, Wombat? Dai, Vai. Andiamo con gli Eels. Love of the Loveless. I like it. God up there, something above. God, shine your light down here. Shine on the love, love of the loveless. Love of the loveless. Love of the loveless. Love of the loveless. The love of the loveless. All around you, people walking, empty hearts and voices talking, looking for and finding. Love of the loveless. The love of the. No, non ci sei, Cartuco, ci sono io. No? E allora, ah, ecco, sì, viva. Certo, ci sono. Avete riconosciuto la voce che è entrata prima gamba tesa nella trasmissione? No, è un messaggio agli ascoltatori. Ecco. Scrivetecelo per mail, apposta wombat@insiberia.net. Non ci scrive mai nessuno. C'è un mic libero se vuoi. Dai. Vieni con noi. Volevo soltanto dire che non sulla home page, ma dove nella pagina streaming c'è anche il link alla nuova app di Radio Wombat, che a differenza di quella precedente, con questa si può accedere direttamente alla pagina dei podcast. Quindi, e questa funziona. Esatto, oltre a ascoltare in streaming c'è l'ultimo tastino a destra quando uno l'ha appunto la scaricata e installata, che porta direttamente alla pagina e funziona per Android. E funziona per Android e tra l'altro è proprio, non è un aggiornamento, per cui uno quando la scarica la installa può succedere che è installata accanto all'altra, quindi a quella precedente, quindi uno o disinstalla prima oppure dopo la precedente oppure può tenere tutte e due, ecco, non si va a sovrapporre sull'altra. Quindi il Wombat si evolve e potete portarvelo sempre in tasca. Io l'ho fatto, l'ho usato città. Anche nel campo per ascoltare Radio Contado. Un'ultima precisazione su questo: se vi capita che nell'app vedete solo il simbolo del Wombat, è possibile sia la risoluzione dello schermo, se girate vi appariranno. Se girate il telefono? Sì. Cioè, no. se giri il telefono e lo schermo lo metti in orizzontale, a me è cambiata la vita da quando mi hai svelato questa cosa. Abbiamo provato, oltre che a implementare appunto la pagina podcast, abbiamo provato a migliorare la scalabilità delle immagini. Su quelli avevamo noi veniva abbastanza bene, però appunto alcuni ci hanno segnalato questi problemi e non riusciamo. Quello che conta è l'audio, comunque, poi alla fine. Cioè. È una radio, è una radio, ragazzi. Grandi. Alla fine è normale che la radio. Questo sarà il leitmotiv di oggi. È tutto normale. Tutto allora, normale. Di cosa andiamo a parlare adesso invece? Allora, di un'iniziativa del 15, diciamo a partire da un'iniziativa del 15 presso i locali della polveriera, Stop al Panico, presentato da A Club, il nodo fiorentino di A Club, If Do, almeno se non penso di averlo detto male. Sì, If Do, forse. If Do. Non lo so. Sì, sarà If Do, dai. If Do, sì, probabilmente. Sono Associazione di Mutuo Soccorso per il diritto di espressione. Libretto che, diciamo... Manuale, direi. Bravo. Direi più manuale. Che cerca un po' di... A partire dalle esperienze del G8, a partire dalle esperienze del G8 e di tutti poi i processi che sono seguiti... Centinaia, si parla poi più di alla fine anche più di 100 anni di condanne agli attivisti. E questo manuale ci racconta un po' quelle le cose che dobbiamo tenere all'occhio. È un po' un'autodifesa verso chi cerca di incriminarci. Quindi dentro le forze dell'ordine, quindi quali sono i nostri diritti e quali sono le cose da fare, le accortezze, le furbizie. Sia dal punto di vista informatico, principalmente dal punto di vista informatico e video, perché poi sono state quelle le grandi prove apportate a supporto dei processi, ma non solo. Vi leggo l'indice. Dopo alcune prefazioni e le note introduttive c'è la repressione preventiva, allarme mediato e corriere nel carriere nel corpo inquirente nelle reazioni, le misure di prevenzione, il processo penale, tecnologie, comunicazione, dati, quali rischi e quali tutele. Quindi quello che vi dicevo, uno degli ultimi capitoli. Vi leggerei, per farvi capire meglio, l'introduzione, anzi la prefazione di supporto legale. Vado a leggervela. Vai. Allora, estate 2004, sono passati 3 anni dalle giornate di Genova. Il movimento contro il G8 si è spezzato più volte. Perquisizioni e sequestri hanno portato nelle mani delle procure tantissime documentazioni audio e video, come vi dicevo. Immagini delicate, materiali di ogni tipo. Anche i collettivi che decidono di farsi carico di seguire la triste fase processuale faticano a trovare una modalità efficace e condivisa. È in questo momento davvero difficile che nasce Supporto Legale come progetto collettivo pensato per sostenere da un lato la difesa di tutti gli imputati dei processi genovesi ai manifestanti, dall'altra i team legali impegnati nei processi contro le forze di polizia riguardanti gli eventi avvenuti nella caserma Diaz, che tutti ben ci ricordiamo, ahimè, e al carcere di Bolzaneto. E qui poi si ritorna tutta la questione della tortura e del reato di tortura che ancora non abbiamo. Formato da persone di provenienza, pratiche, storie e formazioni culturali e professionali diverse, a volte opposte, trovano un punto comune fondamentale in una regola, semplice quanto non scontata: difendere tutti e tutte, senza cadere nel divieto e nel divide et impera, aiuto, su cui troppi campano. La divisione tra manifestanti buoni e cattivi non ci è mai appartenuta. I mesi passano, i processi si snodano attraverso percorsi accusatori cervellotici nei processi a carico dei manifestanti e attraverso percorsi invece omertosi nei processi a carico delle forze di polizia. Questa grande disparità che si è vista evidente a tutti di una ricerca di parare il culo ai poliziotti che hanno abusato del loro potere e invece una ricerca di una condanna esemplare. Appunto più di 100 anni poi alla fine, ma non solo, a tutti invece sì. Gli attivisti. Sì, ma non solo, perché... Vabbè, finisci, dai. Supporto Legale si fa carico per tutta la durata dei processi di ordinare e rendere fruibile ai legali il materiale, analizzarlo, cercare fondi, seguire la comunicazione e fornire consulenti ai team legali. Quindi questo ha fatto Supporto Legale. Conclusione della prefazione da parte appunto di Supporto Legale. Oggi trovare denaro e trovare memoria è sempre più difficile, ma se c'è un'eredità che Genova deve lasciare è quella della consapevolezza, e da qui appunto questo libro. Quando uno Stato mette in atto meccanismi repressivi, violenti o restrittivi che siano, l'unica arma che abbiamo in mano è la consapevolezza del potere dello Stato e delle forze di polizia e dei nostri diritti. Sapere cosa possono o non possono fare e cosa noi possiamo o non possiamo fare significa difendersi prima di tutto, o perlomeno non rendere loro la vita facile. Dopotutto, una bella soddisfazione comunque. Fotti il sistema, studia. Cioè, ecco, appunto, sì, esatto, studia. Perché appunto hai letto anche l'indice del, c'è tutta un paio di prefazioni, questo di quella prefazione poi di Notav, bravo, movimento Notav, e tutta la descrizione del processo penale, come funziona, GIP, GUP e via discorrendo, indagini preliminari e via discorrendo, e appunto l'ultimo capitolo è sul riguarda come trattare i dati, come utilizzare la tecnologia per far sì che i dati siano il meno tracciabili possibile, e quindi dalle varie chat, dalle varie mail, dalle password, crittografia end-to-end, che è quella, esatto, che non salva nei server ciò che scrivi. Esattamente, quindi cose importantissime che riguardano un po' tutti, e tutti gli attivisti. E gli smartphone, leggetelo, gli per smartphone, favore, leggetelo, smartphone, perché assolutamente è importante. Quindi, se volete saperne di più, cosa dovete fare? Cosa dovete fare? Dovete andare in polveriera sabato 15 alle ore 18, si inizia con la presentazione, ci sarà poi una pre-cena e poi un post-cena che sarà tendenzialmente punk hardcore. Vi dico anche con chi, perché ci saranno ben 3 gruppi. Uno si chiama Come le Bestie, che fa punk hardcore, e Ancora Vivi invece loro post hardcore, e poi Deiazione anche loro punk hardcore. Quindi vi aspettiamo tutte e tutti in polveriera dalle ore 18, e mi raccomando, venite, perché andate, perché è importante. La polveriera sta attraversando un momento non facile, quando mai è stato facile, dice, però ecco, ora in particolare per lo sgombero che è stato annunciato, come spero già sappiate, è stato annunciato già settimana scorsa, anzi in verità è stato votato venerdì, che era il 30, se non mi sbaglio, è stato appunto approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario. E allora, non come giustamente dicevi, non, all'inizio di puntata, non solo la polveriera, è una situazione fiorentina particolarmente delicata e tragica. No, direi tutte. Tutti gli quasi, praticamente tutti gli spazi fiorentini sono sotto il tutti a parte minaccia. Uno ci fanno notare. non tiriamocela, o non dare suggerimenti. Non tiriamocela, però possiamo dire anche qualcosa anche su quello, perché merita. E si sta parlando del CSN Next Emerson, che effettivamente non è sotto sgombero. Si tratta di un di un lotto di terra che ha diciamo di proprietà di una cooperativa unica, che è fallita svariati anni fa, e adesso c'è un insomma, stanno mettendo all'asta tutti i vari lotti, e sono tanti, nel senso non solo quello di Castello, ma anche a Fiesole e altri edifici, altri lotti. Piano piano li stanno mettendo tutti all'asta, e aspettiamo, o al meglio non aspettiamo, l'uscita del bando per il lotto dove ha sede il CSA Next Emerson. No, infatti chiaramente ne parleremo, sicuramente Radio Wombat in generale ne parlerà, e c'è già poi anche una risposta, una creazione di un bel museo dedicato a tutte le attività, ma insomma non... Vedremo poi, insomma. Vedremo, sì. Forse non tutto. Possiamo anticiparla questa cosa, non lo so. Non si può possiamo, dai, sì, ok. Okay. Non si può fare nulla, allora... non è una radio libera. Allora, no, vabbè, però, allora, il discorso sugli sgomberi è proprio che, sì, cittadino, perché a parte Next Emerson, tutti hanno ricevuto un annuncio di sgombero, sì, dal CPA dell'anno scorso, la polveriera di una settimana fa, lo spazio IAM, Via del Leone. Via Le Corsica, e poi gli sgomberi. Abbiamo perso Toselli, se ci ricordiamo. Abbiamo perso Toselli, non solo. La Crepa. Mondeggi pure. Mondeggi è sotto sgombero anche loro. Fra l'altro, hanno avuto diverse visite da parte di Sbirranza quest'estate. Un po' sgomberato. Il panico. Con i compagni arrestati. Esatto, e sotto un processo enorme, fra l'altro. E fra l'altro anche gli ultimi sgomberi in città, ne abbiamo visto uno pochissimi giorni fa. Si tratta dell'Hotel Concorde, che dopo un incendio ne hanno approfittato e hanno sgomberato tutti. Ma possiamo anche citare Via Panciati del 24 ottobre, quindi insomma la strada è lunga. A Sesto anche... L'elenco è lungo e comprende praticamente tutti gli spazi. Questo cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che probabilmente anche con l'arrivo di questo decreto sicurezza, che inasprisce notevolmente le pene per l'occupazione, oltre che per tante altre cose, rende veramente molto difficile la vita degli attivisti. Però va detto che il DDL è una cosa abbastanza recente, le sgomberi invece sono qualcosa... Certo, sì. No, ma è, diciamo, appunto, le cose non stanno andando a migliorare, bensì stanno diventando sempre più dure. E allora, a cosa andiamo a parlare? Diciamo due parole su... Allora, ciao Lapo, innanzitutto. Ciao belli. Lapone, ragazzi, che bello. Che già c'era, anzi, non l'abbiamo salutato. Sì, no, ero qui dietro ad ascoltarvi, ad aggiornarmi. No, sì, io sono stato l'altro giorno al Concorde a sentire un po' come era la situazione. Sì, in effetti c'è stato un principio di incendio, per cui lo stabile è stato evacuato. C'erano circa 30 famiglie che risiedevano lì. E questo principio di incendio si è sviluppato per un incidente, diciamo, pare un incidente domestico nel seminterrato. Hanno fatto evacuare dunque lo stabile e contestualmente sono arrivate le forze dell'ordine e hanno poi, una volta controllato l'incendio dei pompieri, hanno poi chiuso lo stabile, sgomberando quindi di fatto il Concorde, cogliendo questa occasione per... sgomberarlo. 30 famiglie rimaste per strada, un poco meno della metà quasi subito affidate a strutture, portate in strutture per di accoglienza. Le altre persone non so come dove hanno trovato riparo poi, alla spicciolata in qua e là, e in più, alle quali vanno aggiunte tante altre persone che, non avendo con sé documenti, sono state costrette a scappare, cioè a non farsi trovare lì al momento dello sgombero, e a non poter usufruire dei servizi di accoglienza e delle soluzioni abitative di emergenza. Esatto. Quindi niente, è una cosa che va ad aggravare la situazione dei senza casa in città, in una città in cui le case sfitte, le case vuote, i posti abbandonati sono un'infinità, sono veramente tantissimi, quindi niente, la situazione si aggrava ulteriormente. Sola. Si aggrava ulteriormente, nonostante gli annunci del famoso piano casa fantasmagorico sponsorizzato dall'amministrazione, però di fatto di reale noi fino ad ora vediamo sgomberi e persone che nell'inverno. Tra l'altro, una cosa brutta che è successa: il comune aveva lì per lì detto che ci sarebbero stati, sul momento aveva detto che sarebbero state dei posti, delle case che il comune libere, che il comune avrebbe messo a disposizione per queste famiglie. Peccato che subito dopo è uscito un articolo della Nazione che millantava questa cosa, che accusava il comune di regalare case agli stranieri, e il comune ha ritirato questa proposta. Quindi, insomma, tanto per rimanere in tema, rimanere sempre fedeli alla linea. Fedeli alla linea, sì, salviniana, che però abbiamo visto nella nostra città, almeno è fatta propria anche da quella che dovrebbe essere la sinistra, che poi ormai così non si può più chiamare. Bene, bene. Bene niente, ma... Bene per niente. Bene un cavolo. Sì, bene un cazzo, effettivamente. Che sa fare? Si stempera un po' l'atmosfera, dai, un dai, po' di fischietti. Perché sabato, se non sbaglio, è stata giornate queste qua, tutte quante di tristezza. Ci siamo consolati, siamo andati al concerto della banda Bardot e siamo tornati ai 16 anni. E quindi niente, concedetemi questo omaggio a questi paladini delle nostre adolescenze. Vai, no? Wombat. Fuori orario, come fuoco alle polveri, praticamente sempre, tranne oggi siamo stati puntuali. Hai visto, buaioli? Le rose profumano, sanno che loro mestiere biancano soltanto per dovere. Sono tempi scuri in cui è difficile trovare ombra. I fiori sanno sempre ripararsi dalla vergogna. I dubbi esplodono davanti a due sentieri, uno fatto di specchi ma senza desideri, l'altro di spine e voglia di ricominciare. Lascio quello che trovo e cerco di trovare. Fuori orario si conquista la medaglia dell'esperto equilibrista, un funambolo che vola fischiettando a squarciagola. Come dire, la fatica è una storia che non mi riguarda, che non mi riguarda. E non fermerò, manca il paradiso e la voce di Charlotte. I fiori dicono che è tempo di fiorire, non sono curiosi su come andrà a finire. Sono tempi scuri, è difficile trovare ombra. Lascio il tempo che trovo, fuori orario mi guadagno una candela e mi imprestano una sfera per rileggere il passato un po' falso e comandato, come l'uomo sulla luna, come pioggia sulla sfortuna. E non, non, no, e no, e no, e no, no che non mi fermerò. Datemi una chitarra. anche le foche bevono Radio Wombat. Amo il macino, marica nena, vas en putino. Que muy machino, amo il macino, marica nena, vas en putino. Que muy machino, amo il macino, Duco, marica nena, vas en putino. Duco, Duco, Duco, amo il macino, marica nena, vas en putino. E eccoci. Anche le foche sono, allora, sotto sgombero. Anche le foche sotto sgombero, sì, dal loro, dal loro iceberg, Sì, sì, cioè non c'è da... Difendi la foca monaca. Allora, il concerto della banda Bordeaux era venerdì, sabato c'è stata un'altra grandissima giornata che era la giornata contro le grandi opere imposte e inutili, e noi ci siamo stati. Ci siamo stati, eravamo al presidio della piana. Virtuosismo alla regia. Presidio della piana che ha visto, insomma, una passeggiata nella mattina dal polo fino attraverso al lago, dal lago di Feretola, poi fino al presidio, un pranzo e un pomeriggio con dei collegamenti con le piazze Notap e Notap. Esattamente, se avete avuto la fortuna e il piacere di aver ascoltato Radio Contado mentre intervistava i compagni su della Notav, la chiamata Notav non è stata solo per andare su a Torino, ma anche per tutte le lotte territoriali che vanno contro le grandi opere. Quindi si parla, per quanto ci riguarda, del no aeroporto, no inceneritore, ma si ricorda anche il no MUOS, di cui abbiamo peraltro parlato. Ma anche il Notav qui a Firenze, sotto attraversamento. Bravissimo. Sì, che comunque è sotto la sigla Notav sempre, perché... sempre della stessa opera si parla. Sì, li abbiamo intervistati settimana scorsa. In particolare abbiamo intervistato Tiziano Cardosi, che è un po' una delle voci principali dei Notav Firenze. E fra l'altro troverete contributi anche altri contributi su Radio Wombat. Ne ha parlato la passeggio a Nordovest stampa rassegnata giusto prima di noi. Quindi potete risentirvi poi podcast. Potete risentirvi podcast. In particolare lui parla della questione di Signa, di uno svincolo che, insomma, tutta una questione sulla viabilità signese che cambierà se questa pista verrà fatta. Ascoltatevelo. E ora ci stava un... Sì. E ora vi alzo la musica. Quasi un Schumacher ci oggi si dorme, regista. No, non lo fa arrabbiare, Dai il culo proprio tutti. Poi sminuite la difficoltà della regia. No, difficilissimo. Mi vedo un impegno, una concentrazione. Ma quale difficoltà della regia? Ven via, dai. Ma vai. Continua a chiacchierare, vai. Scattano gli scoppi su Radio Wombat, ragazzi. Scattano gli scoppi. Che sa fare? Cioè, se volete vi faccio anche una chiacchierina su cosa combina il vecchio Nardi. Se cambia... Dai, faccela. Perché non è che abbia combinato troppissimo, a quanto sembra. Ma almeno, noi senza preso il rispetto pezzo alla sua media, diciamo. O almeno non l'ha esternata, diciamo. Sì, diciamo di sì. Le forse pensa. Sì, ce l'ha segnata lì sul comodino e nulla. Ce l'ha in serbo per poi. Quindi niente, io andrei di sigla perché mi piace fare le cose per benino. Allora, nel momento sigla. Che mi stanno criticando dal regista, andate a fanculo e vi mando la sigla. Voglio vedere quale regista fa queste sigle. Poi le chiacchiere. Fenomeno di incapacità. Nei libri di storia ci sarà solo se li scrive sua sorella. Lo sceriffo sindaco Nardella. Oh. Eccoci qua. Allora, che ha fatto? Allora, c'ho poco da raccontare questa settimana. Però volevo parlare del rammarico di Nardellino per il ritiro della candidatura di Minniti dalla segreteria del PD. Più che una sconfitta è un'opportunità persa, si legge il 6 dicembre. Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, tra i firmatari del primo appello per la candidatura dell'ex ministro dell'interno Marco Minniti. Ne prendo atto con rammarico, come centinaia di altri miei colleghi sindaci che hanno firmato questa candidatura, che aveva un obiettivo molto chiaro, cioè dare più forza e unità al PD, aggiunto a margine della presentazione della nuova fermata ferroviaria Firenze-Guidoni. Io penso che tutte le decisioni siano sempre negative, ha proseguito Donardella. Del resto la storia ci insegna che producono risultati negativi. Detto questo, non ho intenzione di occuparmi della politica nazionale, sono concentrato su Firenze. Ecco, allora, diceva così anche il suo amico, esatto, c'era un altro tizietto che diceva sta cosa. Infatti andiamo a vedersi un altro articolo che parla sostanzialmente della solita cosa. Matteo Renzi, cosa dice? Che Renzi, che si sta forse allontanando dal PD, e Nardellino c'ha la cacca, così fa anche rima. Il mio partito, dice Nardella, Firenze. La città più bella dell'universo, ricordiamo. Esatto, la città più bella e meglio amministrata dell'universo, soprattutto. In cima alle liste per le città più... Insomma, cosa dice Matteo Renzi da Rignano sull'Arno? Ricordiamoci che da Firenze Cucaz che viene. Da mesi non mi preoccupo della ditta PD, mi preoccupo del paese, che è più importante anche del PD. Il mio partito si chiama Firenze, invece l'ha detto Dario Nardella. Grande bufera del centro-sinistra, ci mettiamo le virgolette, che rischia di avere grandi ripercussioni anche su Firenze. Nardella frena dicendo che non commento ipotesi, sui giornali ne leggiamo tante. Nel frattempo, non so se vi siete svegliati stamattina, non so, magari amici del nord, soprattutto si sarà, abbiamo sentito anche amici del nord che Firenze dicevano, nord. No, del nord, diceva mi sento a casa stamani, perché stamani a Firenze c'è stata una gran nebbia e capita. Nardella non ha perso l'occasione anche in questa situazione per parlare dell'aeroporto. No, aspetta, Boni, ancora no. Sì, c'è la nebbia, è vero. C'era la nebbia stamattina, sono stati cancellati diversi voli, però a quanto pare nel progetto dell'aeroporto di Nardella ci sta pure un sistema antinebbia, qualcosa, perché col nuovo aeroporto, cucazzo che ci sarebbe stato questo problema. Barriere antinebbia. Firenze ha bisogno di un aeroporto degno di tale nome, e è scandaloso che 1000 voli vengano cancellati, che 90.000 persone restino a piedi tutti gli anni. E quindi niente, un nuovo aeroporto a quanto pare, non lo so, non ho mai letto nessun articolo sul sistema antinebbia, no, sopra però... la nebbia sta. Ah, ho capito, cioè lo vogliono fare su. Sì, oppure comunque io guardo la nebbia andando verso il Mugello stamattina, ho visto che dalla Lastra in su già non c'era più nebbia, quindi si potrebbe suggerire di farla verso Fiesole, questa famosa sulla Halvana, se no, sulla Halvana o giù di lì ci potrebbe stare un pistino, lì probabilmente nebbia non ci sarà mai. Quindi nulla, Nardella, ma probabilmente anche Matteo Renzi ci staranno sicuramente ascoltando in questo momento, e sono sicuro che riusciranno, insomma, a cogliere i nostri acerbi, i nostri suggerimenti, le nostre elucubrazioni acerbi, e riusciranno a tradurle in reali proposte per la nostra città, per la nostra vita e per il nostro futuro. O comunque potremmo anche andare noi direttamente a proporle, perché stiamo diventando amici quasi quasi, sì, collaboratori, si può dire. Sì, ci sarà il 15 dicembre, c'è Firenze 2030, esatto. Nardellone nazionale, regionale, universale. Anzi no, locale, diciamo, si confronterà con vari tavoli con la gioventù che andrà verso Firenze nel 2030. Il tema sarà proprio appunto Firenze del 2030, e ci saranno tavoli tematici su tutti i temi inerenti alla città. E io sono iscritto, pure io. Te dove vai? Io mi pare, io avevo messo 1000, però non si capisce una sega nel forum della partecipazione. Però mi sa che mi tocca alla fine ambiente, tipo roba verde di massima. Io invece turismo. Buono, dai. E quindi niente, vi sapremo dire a questo punto settimana prossima, che il 15 sabato avremo anche, insomma, la nostra puntata del lunedì 17. Arriveranno aggiornamenti. Vi sapremo dire. Ci racconterete. Vi racconteremo, sì. Vi racconteremo. Io non lo so, sensazioni? Sì, grippo? Su questa cosa qua? Nausea? No, aspetta. No, aspetta. Non lo so. Bisogna vedere un attimino se sarà la solita messa in scena o se ci sarà veramente spazio di dibattito, insomma, non lo so, non so manco se si potrà chiacchierare. Non lo so, vediamo. A me hanno addirittura chiesto se volevo di andare ma mi sa che lo chiedano a tutti, sta cosa. Non è che... Vabbè, il facilitatore, perché te lo immagini? Aspetta, non c'è cos'è? Il facilitatore è una persona che facilita la discussione all'interno di questi tavoli, cioè il mediatore, diciamo, una sorta di mediatore, si cerca un po' di tirare le fila, però il fatto è che non è molto chiaro come saranno strutturati i tavoli, quindi vediamo un po'. Boh, vediamo un po', aspettiamo un attimino a parlarne troppo male. Intanto noi ci si va e poi dopo ne parliamo male a Controdario della prossima settimana. Ok, cioè, aspettiamo. Vediamo un po', ne saprete di più a Controdario di settimana prossima. Nardellino out. Chatta la buca con la sua app. La fototrappola ti beccherà. Vuoi la schiacciata? Scappa di qua. Anche lo stadio con l'aeroporto ci stupirà. Questo è il decoro di Nardella. Yeah! E subito così a merda vi lancio un pezzettino. Dai. Di Calexico, Cumbia de Donde. Allora, rieccoci qua. E andiamo a parlare invece. Di cosa? Allora, andiamo a parlare di Genuino Clandestino. Perché. Genuino Clandestino. Genuino. Che si è ritrovato proprio negli spazi della polveriera, sempre. È vero. Di cui Bricobaldo hai. Non lo so. Ho fatto un'intervista. Capito attraverso l'intervista. Sì, un po' delle basi, sì. Diciamo che è un percorso che seguiamo da tempo. È vero, è un percorso che seguiamo da tempo e addirittura abbiamo sul Wombat una trasmissione che è un'espressione del nodo fiorentino di Genuino Clandestino, cioè il Radio Contado. Sì, esatto, il nodo fiorentino che si chiama Jérôme Le Rons, in onore al pastore, al contadino ucciso in Francia. Perché, non sapete perché? Ecco, bravo, raccontiamolo. Allora, ora io magari i miei compagni e le compagne del Recontato poi sono di meglio. Esatto, si incazzeranno per quello, per le cazzate. Chiediamo scusa. Chiediamo scusa preventivamente. E sì, lo so, non ti arriva, ma perché è lento a caricare, caro Grippo. Comunque, Jean Larons era un pastore che aveva queste pecore, che si rifiutava di registrare. Penso che insomma gli animali non so se gli installano dei chip o comunque devono essere registrate a un'anagrafe. Lui si rifiutava di fare questo, e tant'è vero che è stato ucciso, gli hanno sparato alle spalle a un certo punto, perché era ricercato per questo motivo qua, diventato latitante. A un certo punto l'hanno trovato e per cercare di fermarlo gli hanno sparato e è morto, ma questo un poco tempo fa. Assurdo, pazzesco. Comunque, nodo genuino clandestino, che si occupa poi in generale proprio non solo di ortaggi e frutta, ma è proprio un'attitudine, no? Un'attitudine al commercio. All'agricoltura contadina. No, al commercio, scusate, volevo dire all'agricoltura. No. Scusate. sì, all'agricoltura e a un approccio alla terra e proprio a come coltivare le cose. A Radio Contado, dove siamo stati io e Grippo l'altro giorno, si parlava anche poi proprio di una parte di questo nodo giù in Sicilia, dove si coltiva l'alga spirulina, e abbiamo parlato di agricoltura, di permacultura, che è proprio un approccio all'agricoltura totalizzante, che è un approccio totale nel senso che ogni elemento della terra, dall'albero all'artaggio, all'uomo in sé, al fungo, sono tutti in connessione. Quindi quando tu vai a coltivare qualcosa devi tenere di conto di tutto ciò. Chiaramente per delle specifiche, perché c'è stato appunto il compagno che ha raccontato, che fa parte del nodo siciliano, lo racconta sicuramente meglio nella specifica. Però è interessante, come sempre, le attitudini diverse da ciò che vediamo tutti i giorni. Insomma, alla fine il nostro scopo è anche vedere il mondo da un'altra prospettiva, perché forse alla fine dei conti è migliore, no? È vero, sì. Quindi chissà, si staranno brividi per i compagni e le compagne del Recontato dopo tutto questo abbiamo detto, sicuramente. Però allora, intanto l'intervista, perché siamo andati a intervistarli? Perché sono andato a intervistarli in Piazza Tasso, intanto, dove si svolge tutte le settimane, tutti i venerdì, il mercato contadino del nodo Jérôme Larons, e mercato che si svolgeva in un altro posto fino a un paio d'anni fa circa. Si svolgeva nel chiostro di Santa Pollonia, davanti alla polveriera, spazio comune, fino a che non è successo che hanno chiuso un cancello, e quindi loro per forza di cose si sono dovuti spostare. Era un cancello che ha precluso uno spazio pubblico al quartiere, e alla possibilità di fare, da parte dei ragazzi e le ragazze della polveriera, di fare appunto questo tipo di eventi. Spazio pubblico è diventato a tutti gli effetti uno spazio privato, dato a pagamento, sì, per eventi privati. Sì, diciamo, usato come fondale, come bel fondale per gli eventi che vengono organizzati nell'auditorium che c'è al pian terreno, che la regione mette in affitto per eventi più disparati. Un spazio che fra l'altro negli anni 70 era utilizzato per le assemblee studentesche, per da lì partivano, giusto, si organizzavano e partivano manifestazioni. Insomma, c'è una bella storia dietro, che comprende anche appunto i mercati organizzati in polveriera. Non era proprio un genuino clandestino, cioè era a quel tempo, è vero, era la costruzione del nodo clandestino. Era partito questo percorso insieme a Mondeggi, per far sì che appunto i produttori contadini della zona intraprendessero, insieme a quelli che già facevano parte del centro clandestino e quindi rispondevano a certi principi etici sulla coltivazione, si allargasse questa partecipazione e si potesse appunto parlare di un mercato interamente di genuino clandestino, come poi si è realizzato adesso in Piazza Tasso. Esatto, perché quello che c'è da dire è che tu non vai a comprare un ortaggio, ma vai a conoscere le persone e il loro vissuto e il loro modo di agire, no? All'interno del modo di coltivare, perché esatto. Una delle cose principali per ovviare ai limiti imposti dal controllo, dalle garanzie sui suoi prodotti è stata elaborata il metodo della garanzia partecipata, ovvero i produttori stessi mettevano a disposizione, aprivano i loro campi, le loro aziende ai visitatori, agli acquirenti che andavano di persona a vedere che cosa... che il prodotto è di origine controllata in senso stretto, cioè controllata di persona, non con un marchio che più delle volte, cioè che si compra poco attendibile spesso, fra l'altro. Un po' esatto. E il tornare a vedere quello che compri e parlare con le persone, secondo me è un nodo importante, appunto. Poi quindi è l'accezione positiva del clandestino certo, che c'è nel nodo, perché ormai secondo me, ora questa è una mia percezione personale, però la contemporaneità ci porta, no, a farci spedire tutto da lontano, non ce ne frega niente da dove arriva, chi ce lo manda, come lo fa, come lo impacchetta. Oppure a credere anche a determinate certificazioni, i bollini che vengono apposti sopra ai prodotti, che poi in realtà, da quanto, insomma, parlando con membri di Cinerino Clandestino, cioè, mi dicevano che in molti casi, nel senso, lo scoglio per arrivare a determinate certificazioni è di tipo economico, cioè un'azienda grande se li può permettere, può, senso anche parlare del bio più bio. Il marchio non determina la qualità del prodotto, il fatto che il modo in cui viene confezionato e prodotto e trasformato avviene con determinate procedure riconosciute, certificate, allora, però non riguarda la qualità del prodotto o la qualità della vita delle persone che lavorano a quel prodotto. Che poi lo sfruttamento non vuol dire solo, ahimè, quelli che conosciamo, i raccogliatori di pomodori, ma vuol dire anche pagare un niente gli agricoltori in generale e farli vivere nella fame. Sì, sì, poi fra l'altro ci sono anche grandi aziende che si possono permettere di possedere dei marchi di certificazione, e quindi naturalmente poi la qualità figurati. Ciao. Comunque ce l'ascoltiamo questa intervista? Vai. Però bisogna fare un accrocco. Sì, facciamo un accrocco. Quindi ci sarà un pochino di scrocco. È colpa del regista. No, è colpa di Bricco Baldo da noi. Ma qui c'è una guerriglia in atto alle due sponde del tavolo. Ma per fortuna le assi tengono lontane le mani. Però forse partono gli scoppi, forse partono i calci da su. A un certo punto partiranno, fatevi una ragione e tifate per favore da casa. Scriveteci in mailing list per chi state, per Grippo o Bricco. Via! Spesso al microfono di Radio Wombat, ma su un'altra trasmissione, su Radio Contato, e siamo a parlare di percorsi di autogestione. Esattamente, ci troviamo in Piazza Tasso al settimanale mercato del venerdì, mercato che ha iniziato la sua storia a Firenze in un altro posto. Sì, si iniziò questo percorso fiorentino, diciamo, della rete nazionale Genuino Clandestino, è nato proprio aggregandosi nello spazio della polveriera. Io mi ricordo, se non sbaglio, se era alla fine del 2014, quindi ormai un po' di anni fa, si fece un incontro con i ragazzi del collettivo della polveriera come Genuino Clandestino, perché erano incuriositi dal percorso nazionale che comunque ormai si era fatto attraverso l'esperienza dei mondeggi, ma anche altre iniziative a Firenze. Quindi si fece un primo incontro per capire, per conoscersi e così per raccontarsela, e a un certo punto venne fuori proprio da ragazzi della polveriera, venne fuori questa voglia di iniziare un qualcosa in quello spazio lì, che era uno spazio di Santa Pollonia, lo spazio in centro, uno spazio appunto dove c'era spazio per l'autogestione e anche proprio di un mercato contadino, di iniziare un percorso che portasse quello che può portare un mercato contadino autogestito, quindi legato a Genuino Clandestino, quindi tutta la riflessione sulla libera circolazione dei prodotti contadini e altro, sulla cura dell'ambiente, sull'agroecologia e quant'altro. Si iniziò questo percorso molto bello, perché siamo stati per penso più di 2 anni e si faceva la, la domenica, una domenica al mese, mi sembra la seconda domenica del mese, si faceva questo mercato contadino, era molto, molto vivo perché c'era questo grande interesse da parte del mondo universitario, da parte del mondo insomma, legato al collettivo della polveriera, e per noi è stata una bella esperienza perché appunto siamo entrati in contatto con delle realtà che prima nei mercati contadini che c'era a Firenze non avevamo tanto contatto con, questa, con questo mondo diciamo di universitario. Ecco, spiegaci esattamente che cosa rappresenta un percorso di autogestione di un mercato in una città come Firenze e in particolare nello specifico in uno spazio come poteva essere quello di Santa Pollonia, anche appunto relativo alla, alla vicinanza, alla, all'utilizzo degli spazi autogestiti dalla polveriera. Ma, come in tutti i percorsi diciamo l'autogestione comporta la partecipazione, quindi noi la prima cosa che si mise su parallelamente al mercato fu un'assemblea dove appunto abbiamo definito insieme le regole che comunque questo mercato si doveva dare, quindi tutti i percorsi di ammissione dei produttori che facessero parte di un percorso politico oltre che di produzione e basta e di vendita, e quindi si è iniziato con questa assemblea che si faceva prima di mercato, la settimana prima, dove appunto si è tentato di darci una forma e delle regole condivise. Alla fine proprio di questo percorso che è finito perché con la chiusura di Chiostro principalmente, perché fecero questa azione abbastanza sgradevole di riqualificare, per come intendano loro, il chiostro, facendo un pratino inglese a rotoli dove appunto non era più possibile calpestare per entrare a fare il mercato, mettendoci un cancello con un bel lucchetto. Quindi diciamo questa esperienza è un pochino, è stata scoraggiata e si è un po' afflosciata su questo episodio della chiusura di Chiostro, però abbiamo fatto un tempo proprio alla polveriera a fare le prime assemblee costituenti del gruppo, del collettivo di resistenza contadina Jérôme Laronze, che è il collettivo di fiorentino di Genuino Clandestino e Natoli. Le prime assemblee costituenti si sono fatte proprio alla polveriera, molto partecipate da un sacco di gente, produttori, coproduttori, universitari e quant'altro. Proprio lì si fece le prime assemblee e si è iniziato il percorso e poi è sfociato nella prima, diciamo, nell'avvicinamento a Piazza Tasso, che è stata un'esperienza che ancora oggi va avanti, molto partecipata, addirittura il mercato settimanale, quindi ci sarà un contatto molto frequente con chi vuol fare una spesa veramente alternativa direttamente dai produttori. La citavi la chiusura del cancello, è stato uno dei primi passi verso la chiusura dello spazio di Santa Pollonia. Adesso sì. La minaccia è ancora più concreta, visto l'annunciato sgombero da parte del DSU e della Regione Toscana. Quindi cosa ci puoi dire a riguardo? Ne pensa Jérôme Laronze? Sicuramente noi siamo disponibili a partecipare a qualsiasi momento in cui si cercherà di costruire un'opposizione in generale agli sgomberi degli spazi autogestiti, in particolare a quello, perché appunto si ritiene sia uno spazio importante per la città, dove si è sempre svolto attività di buon livello, di conviabilità, ma insomma anche con contenuti spesso molto, molto sentiti e molto importanti, anche molto vicini spesso anche alle nostre tematiche diciamo contadine, comunque riguardano l'autogestione e il mutualismo in maniera diretta. Quindi faremo quello che è il nostro possibile fare per cercare di aiutare e offrire la solidarietà, ma non solo, anche l'appoggio di qualsiasi tipo per scongiurare questo episodio, l'ennesimo episodio di governo discutibile degli spazi, dei beni comuni e degli spazi comunque che sono pubblici e che sono spesso versano in stato di abbandono, in stato di non curanza, insomma, da parte dell'amministrazione. Proprio quando c'è un'attività che si svolge in autogestione, allora viene fuori la possibilità di toglierla. Ci sono delle peculiarità della polveriera, almeno secondo te, che ne fanno uno spazio essenziale o importante per la città? Ma sicuramente tutto l'aspetto legato alla cultura, alla presentazione dei libri, da tutto, la musica, tante esperienze che ho visto passare in questi anni da lì sicuramente hanno una grossa importanza per gli studenti, ma non solo, anche per il quartiere, anche per chi comunque vorrebbe vivere uno spazio urbano in maniera diversa, o comunque in maniera non di città vetrina, non di salottino buono per il turismo, il classico turismo, insomma, si sta incentivando a Firenze, mordi e fuggi, o comunque improntato su un turismo consumista, insomma, che non porta niente a nessuno se non ai pochi che gestiscono la ristorazione e la ricezione, insomma. Bene, ci sarà probabilmente ancora in data da definire un'assemblea pubblica dove tutte le realtà sono invitate, quindi speriamo. Sì, parteciperà. Bene, allora ti lasciamo al tuo banco e speriamo di risentire prestissimo la tua voce su Radio Wombat, chissà in quale veste. Speriamo, quanto prima ci sarà una sorpresa su Radio Contado. Bene, benissimo, ciao Giovanni, a presto. Ci siamo, l'avete sentito il contadino Giovanni? Grazie Bricco per questa registrazione, soprattutto per la qualità. Senti, la qualità non so se avete notato, i cori da stadio dietro, ma c'era il CPA che stava, CPA. Stava cantando comprati lo smartphone, Bricco Baldo. No, in verità era una commemorazione per Bollo. Ah, ok, no, scusa, quindi non volevo mancare di respect. Respect. Ok, quindi ci raccontava appunto dell'esperienza di Genuino Clandestino nel chiostro di Santa Polonia, presso gli spazi della polveriera, e quindi continuiamo a parlare proprio di questo. Come dicevamo all'inizio puntata e anche a metà, e lo ripeteremo sempre, la settimana scorsa è stato annunciato l'intenzione dell'azienda regionale per il diritto allo studio dello sgombero degli spazi della polveriera. Ripercorriamo un attimo lo storico di questo spazio, l'unico rimasto proprio nel centro storico della nostra città. Non proprio l'unico, ci sono altre occupazioni in centro. Questo è un po' l'unico che si connota, diciamo, come spazio completamente aperto, cioè non è un'occupazione abitativa. Okay, giusto. E niente, non è diverso dalle altre occupazioni, no, è autogestito da un'assemblea aperta a tutti, condivide valori di antirazzismo, antisessismo e antifascismo come principi alla base di qualsiasi idea, di qualsiasi azione umana, e fa della solidarietà e del mutualismo il suo punto di forza. Infatti in questo spazio è stato attraversato da una miriade di realtà, di situazioni di lotta che hanno trovato qui occasione di cassa di risonanza, diffusione di informazioni, di autofinanziamento anche per i progetti. E quindi niente, l'occupazione della polveria nasce nel 2014. Proprio in conseguenza alle proteste studentesche rispetto alle sempre maggiori chiusure delle facoltà, all'aziendalizzazione delle facoltà, i corsi di studio trasformati semplicemente in percorsi per esamificio. Sì, esamificio. Era proprio gli anni del passaggio, appunto, come dicevi, dell'aziendalizzazione delle università, con la creazione del consiglio d'amministrazione, composto da... l'ingresso dei privati nel, esatto, consiglio di, nel CDA del DSU, mentre invece le rappresentanti studentesche, mi pare ci sono solo 3 rappresentanti studenteschi di studenti nel consiglio, che vuol dire che non hanno nessun tipo di potere decisionale. Esatto. Solo simbolico. Sono simbolico. E quindi niente, a dispetto di questi simboli, queste delle deleghe, un gruppo di studenti, alcuni collettivi del centro storico, decisero di passare all'azione diretta, ovvero di riappropriarsi direttamente di quelli che consideravano che sono i loro diritti, ovvero spazi, agibilità, momenti di ritrovo, la possibilità di fare tutte le cose che le università non offrono più, quindi anche corsi, occasioni di autoformazione. Sono state fatte iniziative sull'autoformazione sindacale per imparare a muoversi nel mondo del lavoro, sono stati fatti corsi di italiano per stranieri, corsi di disegno, corsi di danza, corsi di capoeira, quindi proprio un'offerta formativa autocostruita dalle persone stesse che ne sentivano l'esigenza. E questa cosa che viene impedita e che contro cui lottano un po' tutte le occupazioni e le autogestioni, cioè avere la propria autonomia, avere la possibilità di libertà, per dire una parola grossa, sì, e che riassume. E in tutto ciò è anche, appunto, come dici tu, poi una questione a tutto tondo che prende anche gli studenti medi, che hanno avuto la possibilità, come sentivamo prima peraltro dal K1, di avere degli spazi dove ritrovarsi e poter discutere, che è anche il modo migliore per condividere e crescere, no? Certo. E sono passati tanti collettivi studenteschi dalle stanze della polveriera anche per poter autofinanziare i propri progetti, perché poi il mondo della scuola sempre più taglia le gambe a qualsiasi altra cosa che non sia, che poi abbiamo visto anche l'aziendalizzazione da un certo punto di vista anche degli istituti pubblici della scuola, cioè con le imprese, certo, di sceriffo, che le poi possono degli spazi, le aulette autogestite, sgomberate, cioè il fatto che tanti collettivi abbiano attraversato la polveriera è una dimostrazione palese del fatto che nel centro storico e in generale a Firenze non ci sono spazi, non c'è posto, sembra non esserci la volontà di dare posto agli studenti, che sono una grande componente. Sono tante scuole, sia medie, cioè sia superiori che università, nel centro, al quale non corrisponde una adeguata disponibilità di spazi di fronte ai grandi spazi che comunque offre una città, le piazze, esatto, le strutture, posti, che anche quelle sappiamo bene che anche le più piazze non ci si può ritrovare più. Santo Spirito abbiamo visto poco fa, Piazza dei Ciompi, c'è sempre chiusure su chiusure, dentro le quali rientrano poi anche le dinamiche di sgombero che subiscono tutti gli spazi occupati, a prescindere da quale sia il grado di urgenza, di imminenza dello sgombero. Ogni posto occupato viene considerato dall'amministrazione un luogo pericoloso, un luogo che non deve, illegale e quindi illegittimo secondo loro, e quindi da sgomberare. Questa cosa va completamente ribaltata, anzi, a dispetto della legalità tanto perseguita, è la legittimità quella che interessa a chi rende vivi gli spazi occupati, autogestiti. Si basano la loro raccolgono la legittimità e il consenso proprio dalle comunità, che sono le stesse poi che se ne occupano, quindi. E quindi poi non solo, perché ci si collega poi, come dicevi tu, anche la questione della rappresentanza sindacale, ci si collega poi anche al mondo del lavoro, perché la verità è che tutto è collegato. Noi si tende a dividere in compartimenti stagni, scuole superiori, insomma studenti medi, università, lavoro. In realtà è tutto un percorso unico di crescita e poi inserimento nel mondo del lavoro, e quindi c'è necessità. C'è stata questa grande, questa grande divisione fra questi mondi, gli spazi da polveriere non solo, tutti i tipi di cui stiamo parlando, tutte le occupazioni, cercano anche di riportare questa connessione. E quindi abbiamo visto anche, per esempio, negli Spazi della Polveriera, ne abbiamo parlato a lungo della creazione, per esempio, del gruppo dei RUF, quindi... Il Riders Union Firenze, sì, che si occupa di rivendicazioni per i diritti dei lavoratori dei ciclofattorini. Una delle prime iniziative importanti in Polveriera fu proprio il corso dei Clash City Workers, esatto, sull'autoformazione sindacale, che portò anche una mobilitazione molto forte contro Italy, che riuscì a ottenere la regolarizzazione dei contratti di tanti dei lavoratori che erano stati assunti in modo precario da Farinetti, che invece villantava di aver dato posto di lavoro a tanta gente. Esatto. Ecco, quindi non sono solo chiacchiere. L'autoorganizzazione porta effettivamente e la lotta portano effettivamente a un miglioramento, a una conquista di diritti o alla difesa di quelli che vengono negati. Che volevo dire? Non lo so, però quindi... Volevo connettere anche, dici bene, connessione tra lo studio e il lavoro, ma fra il lavoro e il diritto alla casa, ad esempio, perché è chiaro che chi non ha un lavoro o la possibilità di accedere a posti di lavoro difficilmente potrà permettersi di comprarsi o di affittare una casa per sé e per la sua famiglia. Quindi sono tutte... connesse tutte le occupazioni, che siano a scopo abitativo, che siano centri sociali, che siano aule autogestite dei collettivi studenteschi, tutte concorrono a una maggiore consapevolezza, a un'affermazione e riappropriazione dei diritti. E ora sto parlando un botto, forse è meglio spezzare una canzoncina e riprendere fra un attimino. Concludiamo soltanto dicendo che in questo momento storico che vediamo, il governo che abbiamo... Non concludiamo, si ripiglia dopo. Del pezzettino, questi spazi sono sempre più necessari e importanti dal nostro punto di vista. Comunque, pezzaccio! Dimmi. Pezzaccio. Giorgio Canali, fuochi supplementari nella speranza che si aggiungano supplementari posti come la polveriera. Accendi un fuoco per ogni treno che hai perso, per ogni rimorso, per ogni rischio che non hai corso. Accendi un fuoco per ogni bacio rubato, per ogni amico perduto, per ogni frase ad effetto che hai dimenticato. Accendi un fuoco per ogni amore finito, per ogni sogno svanito, per ogni incubo da cui non ti sei svegliato. Accendi un fuoco per ogni vuoto lasciato, per ogni abbraccio mancato. Guardati attorno, c'è qualcosa che non si è incendiato. E non so nemmeno che giorno è, ma sono sicuro che sarà peggio di ieri. Ecco, vedi, c'è il sole e piove sui miei pensieri. Forse un mondo migliore c'è, ma di sicuro è da qualche altra parte. Vivere felici è facile, basta non essere me. Accendi un fuoco per ogni filo spinato, per ogni colpo sparato, per ogni bomba esplosa e non si sa chi è stato. Accendi un fuoco per ogni cuore infranto, per ogni accanimento, per ogni niente che ti manca tanto. E non so nemmeno che giorno è, ma sono sicuro che sarà peggio di ieri. Vedi già il sole e piove sui miei pensieri. Forse un mondo migliore c'è, ma di sicuro è da qualche altra parte. Vivere per ogni gatto asfaltato, per ogni grana che hai piantato, accendi un fuoco, per ogni accendino smarrito, ogni calzino bucato. Guardati attorno, c'è qualcosa che non si è incendiato. E non so nemmeno che giorno è, ma sono sicuro che sarà peggio di ieri. Ecco, vedi, c'è il sole e piove sui miei pensieri. Forse un mondo migliore c'è, ma di sicuro è da qualche altra parte. Vivere felici è facile, basta non essere me. Rieccoci qua. Rieccoci. Avete sentito una canzone da 11 canzoni di merda con la pioggia dentro. Giorgio Canali, ultimo disco del 2018, consigliatissimo. Seguitiamo con le nostre grazie, Grippo, chiacchiere polverose. Salutiamo Giorgione. Salutiamo Giorgione, certo. Ma lui lo salutiamo sempre in maniera sottintesa. Allora, stavamo parlando appunto degli spazi liberati fiorentini, che sono, ahimè, quasi tutti sotto sgombero. E della loro minaccia di ciò, della loro importanza. In particolar modo, volevamo affrontare la questione della creazione di cultura, no? E di una cultura libera e scevra da quello, sì, che è poi il profitto. Diciamo, sì, dicevamo della polveriera, che è un po', che è l'ultimo degli spazi che si è aggiunto a quella lista degli spazi sotto sgombero. E sì, ho citato un po' di iniziative che nella storia sono state fatte, appunto in difesa dei diritti sul lavoro, per la casa, sulle lotte studentesche, ma sulle lotte dei no borders, su no TAV, sulla questione urbanistica, tante cose, anche cose di grossa rilevanza, soprattutto dal punto di vista della diffusione e produzione di arte e cultura. Che hanno trovato spazio in polveriera grazie alla partecipazione di tutte, di molte delle realtà occupate, autogestite. E gli esempi più brillanti sono sicuramente il festival di street art e tatuaggi Inchiostri Ribelli, che coinvolgeva, oltre alla polveriera, le occupazioni di Via del Leone, di Valle Corsica, il CSA Next Emerson, l'occupazione sgomberata di Via Toselli, quel museo a cielo aperto, quindi appunto tante realtà, tanti attivisti e attiviste che concorrono alla costruzione di un evento di rilevanza cittadina sicuramente, ma forse anche nazionale. Si mette in lista insieme a tutti vari festival auto-organizzati in giro per l'Italia. Percorso che poi ha visto anche la creazione di un suo collettivo di artisti, no? Citiamo, sì, Ribellarti. Il collettivo Ribellarti, sì, che è un'assemblea che si riunisce durante tutto il corso dell'anno, e poi nella stagione precedente al festival è parte attiva, molto attiva dell'organizzazione. L'altro grosso evento annuale che l'anno scorso è giunto alla terza edizione è il Festival di Letteratura Sociale. Il Festival di Letteratura Sociale, che è stato organizzato sempre in Polveriera e sempre con la collaborazione fondamentale di altre realtà simili, come l'Ateneo Libertario, come la libreria autogestita del Next Emerson, come la libreria Majakowski del CPA di Firenze, certo. Sud. Quindi insomma sono tutte attività, tutte cose che sparirebbero se questo spazio venisse sgomberato, ma che sparirebbero o sarebbero debilitate fortemente anche se gli altri spazi, esatto, smettessero di esistere. Quindi non si può difendere uno spazio o un percorso senza difenderli tutti quanti in pari modo. Assolutamente giusto. E quindi niente, tutte queste realtà che abbiamo citato en passant si sono attivate, hanno fatto sentire la loro voce quando è uscita la notizia del previsto sgombero della Polveriera, consci del fatto che la solidarietà è l'arma più forte che abbiamo a disposizione, oltre alla nostra capacità di mobilitarci. E quindi niente, vogliamo fare un po' una rassegna di cosa è successo dal giorno in cui è stata lanciata la notizia dello sgombero a oggi. Sì, allora la notizia arriva appunto venerdì scorso, se non erro, appunto il CDA dell'azienda regionale diritto allo studio approva con l'unico voto contrario della componente studentesca lo sgombero degli spazi comuni della Polveriera. Questo ha dato, abbiamo visto, una mobilitazione della Polveriera stessa immediata, che ha ricevuto subito una solidarietà diffusa non solo dalla rete di tutti i compagni che fanno parte delle varie occupazioni, ma anche di tutta una eterogenea realtà culturale fiorentina e non solo. Sì, ci sono tanti di quelli che poi sono stati autori e autrici che hanno partecipato al festival o alle varie presentazioni che sono avvenute durante l'anno, sono subito attivati scrivendo una lettera aperta pubblicata sul Corriere Fiorentino, indirizzata alle istituzioni per far valere l'importanza e il valore culturale di questo spazio. Esatto, perché vai. Sì, no, questa lettera aperta ha avuto una diffusione enorme, ha raccolto firme di nomi noti a livello nazionale, proprio a dimostrazione della consistenza reale di questa protesta. Non solo la componente intellettuale, culturale si è mobilitata, quella studentesca ha immediatamente raccolto la palla, la proposta di mobilitazione, scrivendo immediatamente una lettera alle istituzioni, al DSU e alla regione a cui fa capo, per protestare contro il mancato ascolto delle loro esigenze, rappresentate anche dai voti contrari in CDA. Esatto. Ma infatti qual è la questione? La questione è che il CDA ha stanziato i soldi per la, tra virgolette, riqualificazione del complesso in generale di Santa Polonia, però l'occupazione partiva dalle istanze degli studenti che volevano nuovi spazi. Che cosa va a fare invece il CDA con questa nuova, con questo nuovo finanziamento? Va a chiudere definitivamente gli spazi totali di tutto il complesso, un po' facendo in grande quello che hanno fatto appunto, come vi raccontavamo prima, con il giardino, mettendoci degli uffici sempre del diritto allo studio. Diciamo che è un percorso che è iniziato e che non si smentisce nonostante poi l'assessore pure si sia espresso in difesa delle manifestazioni culturali e dell'attivismo. Tutte parole che vengono smentite dai fatti, appunto dalla chiusura del cancello che avvenne d'improvviso e senza alcun tipo di avviso ai frequentatori del posto, Così allo stesso modo questo sgombero, la decisione di questo sgombero, per quanto potesse essere telefonata dal giorno dell'occupazione, certo, è arrivata così d'improvviso, senza alcun tipo di mediazione, e riconferma le intenzioni della regione di estromettere da Santa Pollonia, dal chiostro dove è situata la polveriera, quegli studenti, gli attivisti, i lavoratori che là si ritrovano, ignorandone completamente le esigenze, per vantaggio proprio, diciamo, per avere tutti gli uffici degli enti regionali che fanno capo all'assessorato della cultura in un unico luogo, per risparmiare sugli affitti, per risparmiare per maggior controllo, insomma. Sì, sicuramente utile all'assessorato, alla città forse non era prioritario, non è la cosa prioritaria, ecco. Beh, ci ricordiamo poi, ne abbiamo parlato a lungo, della svendita di tutti i beni pubblici e quindi anche poi collegati al diritto allo studio, che continuano a imperversare, e poi dopo chiaramente se la rifanno su ciò che gli dà noia, cioè sulla libertà di espressione, sulla creazione di cultura che non sia veicolata e non sia gestita da un consiglio, certo, d'amministrazione, c'è, no? C'è questa grande retorica della mancanza dei soldi, che sì, noi possiamo per i giovani, per gli studenti, però ci mancano i soldi per fare le cose. Ecco, la polveriera da 5 anni è là a dimostrare che non è la mancanza dei soldi a impedire un'attivazione verso le persone, bensì una mancanza di volontà politica, sì, esattamente, di cui devono farsi carico e dovranno risponderne. Assolutamente. Tra l'altro ci raccontavi spazi percorsi dagli studenti fin dagli anni 70, ci sono delle scritte greche, no? Qualche anno fa, più di qualche anno fa, sì, la Sovrintendenza per le Belle Arti decise di proteggere i graffiti, i murales che ricoprono parte dei muri del chiostro interno, perché risalenti agli anni 70, quando una forte componente studentesca, studenti greci che fuggivano dai regimi dei colonnelli, e che proprio qua, proprio là nel chiostro di Santa Pollonia, si riunirono e facevano partire numerose mobilitazioni. Quindi appunto la Sovrintendenza alle Belle Arti che sancisce che quei luoghi sono da proteggere, hanno un valore storico e culturale non indifferente. Certo. E il modo migliore per proteggere un posto è dargli un senso sempre legato a questa tradizione di condivisione e lotta studentesca, piuttosto che metterci degli uffici. Sicuramente non è chiuderlo, non è renderlo renderne impossibile l'accesso. Tant'è che, come ci raccontavano i ragazzi della polveriera, quando hanno occupato lo spazio, l'intero chiostro era in uno stato di abbandono che aveva ovviamente portato a situazioni di degrado, di sporcizia, di pericolosità anche strutturale, sanitaria, della quale però non si può incolpare nessuno se non l'amministrazione stessa, che finché non c'è avuto l'interesse suo proprio non è intervenuta minimamente su queste cose e non ha neanche ascoltato chi, intervenendo, gli faceva notare queste, esatto, cose. Che adesso, a 5 anni di distanza dal giorno dell'occupazione, della partenza delle proteste, l'amministrazione se ne esca fuori con dei soldi per attivarsi qua, per attivarsi su questo fatto e cacciare fuori gli occupanti, è pretestuoso, è ridicolo il tentativo di ricciare la frittata. Noi non siamo qui a raccontarlo, a dirlo forte. Si collega infatti tutto poi la questione in generale alla gestione della città, di come è gestita questa nostra città, quindi anche dal punto di vista dell'amministrazione comunale. C'è un articolo che in solidarietà sempre dello sgombro della polveriera di Per un'altra città, che ci racconta anche proprio questo punto di vista urbanistico e dunque sociale, perché poi urbanistico non vuol dire solo costruire un edificio, ma vuol dire rendere la città vivibile per i cittadini e non solo. E dunque anche poi tutti i quartieri, insomma, abbiamo parlato diverse volte del quartiere di San Lorenzo, delle problematiche che vive, collegate poi anche allo spazio di Sant'Orsola. E quindi niente, ora per concludere un po' questa, esatto, questa carrellata, cosa manca da dire? I prossimi passi, abbiamo appunto letto il comunicato che aggiorna un po' sulla situazione. Sappiamo che stasera la, in Polveriera si terrà, come ogni lunedì, l'assemblea di autogestione che tirerà un po' le fila della situazione e deciderà, sappiamo che hanno intenzione di chiamare un'assemblea pubblica per aggiornare tutti sulle intenzioni e sugli aggiornamenti che ci sono, e quindi aspettiamo di scoprire quella data e la proveremo a riporterne anche esatto, vi terremo aggiornati. Potete comunque sempre seguire sulla polveriera.noblogs.org tutti gli aggiornamenti, oppure sulla pagina Facebook, meglio sito, molto meglio il sito, però anche su Radio Wombat vi terremo aggiornati. In ogni caso la parola d'ordine è solidarietà, condivisione e partecipazione. L'unico modo per vero per difendere questi posti essenziali alla vita sociale, alla vita politica delle nostre vite è partecipare, è essere attivi in prima persona. Assolutamente, quindi solidarietà a tutti gli spazi occupati fiorentini e dell'area fiorentina e non solo, del mondo. Assolutamente, infatti seguiamo sempre anche con Senza Frontiere, per esempio Wombat, seguiamo anche le lotte di altre parti del mondo, Sud America non solo, e con l'Uro dei Balcani seguiamo anche i nostri vicini. E basta, quindi vi teneremo aggiornati. Caro regista, cosa vogliamo fare? Vogliamo salutare con un pezzo? Mandiamo un pezzino e poi dopo salutiamo un dopo. Un pezzino, sì, ci sta, c'ho fame. Ok, buon appetito. Andiamo sull'italiano, dai. Pezzo leggero per riprendersi un attimino da questi temi tutti quanti molto spinosi che stiamo trattando. Vado a pescare Gian Maria Testa, La giostra. Viva la tua gestione. Ho fatto un sogno strano, un sogno del mattino, un sogno strampalato e veritiero. Che mi svegliavo ed ero ancor bambino, partivo che il mio letto era un veliero, con da una parte il mare, dall'altra quasi niente, e nelle vele un soffio di tempesta. Volavo sui cappelli della gente, gridavo al mondo e il mondo era una giostra. Tu dimmi se mi credi, e se mi credi aspettami, perché se mai ritorno, ritorno da te. Tu dimmi se mi credi, e se mi credi aspettami, è così. Se poi ritorno ti trovo già qui. La bocca di un cannone spuntava a palle fuoco, e c'era un gatto rosso a una finestra. Guardava quasi come fosse un gioco, la gente che cadeva ostra. Cadeva per le strade, ma senza gran rumore, di novembre. E al gatto rosso si intristiva il cuore, ma stava alla finestra come sempre. Tu dimmi se mi credi, e se mi credi aspettami, perché se mai ritorno, ritorno da te. Tu dimmi se mi credi, credi aspettami, è così. Se poi ritorno ti trovo già qui. Se poi ritorno ti trovo già qui. Senti qua, tu, senti qua. Oh, E siamo giunti anche oggi alla fine della 79esima puntata di Fuoco alle Polveri. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi terremo aggiornati sulle vicende della polveriera e non solo, come sempre, tutti gli spazi liberati della nostra città. Ci sentiamo lunedì sempre alle 16.30 puntuali più o meno con Fuoco alle Polveri. E niente, vi abbiamo dato svariati appuntamenti, ma fra pochino rimanete connessi, perché ve ne daremo altri con la rassegna eventi settimanale di Radio Wombat. E nulla, ciao, che dire, Wombat, sigla. Fuoco alle polveri. Go Halle Paul Berry. Radio Wombat.